anche se c'era già da ieri l'allarme, è un allarme abbastanza elevato per perturbazioni pesanti, purtroppo non si è riusciti a impedire che ci fossero vittime umane. Mi pare che la situazione sia adesso dal punto di vista meteorologico in via di miglioramento.